11. Il racconto di Pamela Lyndon Travers. Tossicchiò schiarendosi la voce. Quante di noi sorelle si sono nutrite e abbeverate alla fonte di una spiritualità esoterica e ne hanno riversati i segreti nei loro scritti, eh? Maria Montessori qua con me, che fosti teosofa e discepola di Krishnamurti. E voi, Catherine Mansfield, Elizabeth von Arnim, e Frances Hodgson Burnett, e Astrid Lindgren, e Johanna Spyri, Gabriella Mistral, Luisa Majalcott, assenti da questo luogo, ma non dal cerchio delle donne. La mia Mary Poppins nacque in un ambiente ermetico, esoterico. Studiai la filosofia zen, il buddismo, le tradizioni native. Mi formai presso il poeta Butler Yeats, che a quell'epoca era gran maestro dell'ordine ermetico della Golden Dawn. Chi ha scritto sulla mia vita ha taciuto o minimizzato questi importanti dettagli. Io ero una iniziata. Su di me circolano molte bugie e omissioni, e le versioni cinematografiche manipolano il mio messaggio, imbrogliando tanto su di me quanto sulla mia Poppins. Fui battezzata Helen in Australia, dove nacqui e rimasi presto orfana. Cercai nel teatro e nella poesia il modo per sbarcare il lunario, come si dice, ma non avevo mai abbastanza denaro per mangiare tutti i giorni. A 25 anni mi decisi a lasciare la mia terra natia per tentare la sorte in Inghilterra, divenendo Pamela. Ma anche lì la fame mi perseguitava e in aggiunta avevo molto più freddo. 10 anni e molte notti insonni dopo, improvvisamente ebbi un lampo di comprensione di quelli che vengono una volta sola e cambiano la vita. Fui visitata dall'immagine di una mia zia terribile, della quale finalmente compresi il segreto, grazie alle frequentazioni nel mondo dell'occultismo, da cui traevo profonda ispirazione. Cambiai completamente genere e creai la bambinaia magica più famosa del mondo. A quel primo romanzo seguirono altri 7 che all'epoca mi diedero una fama al di là di ogni mia più azzardata aspettativa. Le menzogne su di me e sulla mia Mary Poppins, ed enfatizzo mia, perché dopo decenni poche persone sanno che non è stata creata negli studi Disney, bensì sulla mia scrivania di legno nel piccolo appartamento che avevo affittato non lontano dal Tamigi. Le menzogne, dicevo, si riscontrano a cominciare dalla versione della mia vita e del mio rapporto con Disney, contrabbandata dall'industria cinematografica. Nel film Saving Mr. Banks si sostiene che la figura principale delle storie di Mary Poppins sarebbe il signor Banks, il quale adombrerebbe mio padre morto alcolizzato. Mia madre era depressa e si suicidò. E padre che io volevo riscattare. Ma non è affatto così. Il signor Banks dei miei romanzi veri, il papà dei piccoli affidati a Mary Poppins, oltre a essere ottuso, collerico e maschilista, ha pochissime battute in ogni libro. Quale tipo di messaggio lontanissimo dalla verità voleva invece veicolare il film Saving Mr. Banks attraverso questo mio ipotetico padre da salvare? Un'altra menzogna sostenuta nel film è che io avessi trasposto nella famiglia Banks la sicurezza di quei genitori attenti e premurosi che a me erano mancati. Anche questo falso. Nelle mie storie di Mary Poppins, al contrario, papà e mamma Banks sono quanto di più lontano dall'idea di genitori premurosi e presenti. La mamma è frivola e superficiale, incapace di prendersi cura della prole. Il papà arriva ad arrabbiarsi addirittura con la moglie per la nascita della quinta bambina, Annabella, come se fosse una responsabilità di lei, perché non ci sono abbastanza soldi per mantenere tutti. Questi genitori stupidi, aridi e assenti, che venivano dalla mia reale esperienza di vita, sono stati trasformati nelle produzioni cinematografiche in due esseri cinguettanti, lontanissimi dalla mia intenzione. E ancora, la mia Poppins non è bella, non canta e non balla. Lei è una sapiente che viaggia in mondi paralleli e accompagna Jane e Michael Banks in un percorso iniziatico come guida spirituale. La mia Poppins è una guardiana della soglia, un'inquietante, intransigente maga che si smaterializza e ricompare, si sdoppia negli specchi, si muove tra le dimensioni, attraversandole tutte senza appartenervi. Parla con i potenti animali totem collegati alle 4 direzioni. Di nuovo nulla a che vedere con i graziosi animaletti del cartone animato. È una iniziatrice in grado di comunicare con antenate e antenati e di praticare guarigioni miracolose. Il suo compleanno cade di luna piena e si festeggia al giardino zoologico nella grande casa dei serpenti, perché lei è cugina di secondo grado per parte di madre di un cobra reale che come dono di compleanno le regala una delle sue pelli. La fabbrica dell'intrattenimento Disney ha ridicolizzato i miei animali maestri e guardiani. La mia Poppins, segaligna, bruttina, inquietante, con piedi e mani enormi, naso lungo perennemente arricciato a segnalare una permalosaggine temporalesca, non ha nulla a che vedere con le bellissime attrici, canterine e ballerine che si sono succedute al cinema in quel ruolo. Minimizzando la magia di Mary, Poppins hanno voluto eliminare proprio gli strumenti essenziali di cui i bambini hanno bisogno per ricordare chi sono. Esseri divini, come avevi teorizzato tu 30 anni prima nel tuo metodo, sorella Maria Montessori. I risvegli di memorie che tutte noi abbiamo sperimentato come via per raggiungere il sapere delle origini e riportarlo in manifestazione. Nel dire questo, Pamela spinse avanti la donna che ancora teneva per mano, la quale si decise a malincuore a rivelarsi a noi. Si tolse il velo di lino candido e scoprì un volto buono, incoronato da un'acconciatura di altrettanto candidi capelli. Era Maria Montessori, la grande Montessori di cui tutte siamo discepole. Ci guardò con un sorriso benevolo e depositò un lieve bacio sulla mano di Pamela allacciata alla sua. Sì, il mio metodo, sospirò Maria. Sosteneva che bambine e bambini non hanno bisogno di essere istruite, poiché sanno già tutto, che sono naturalmente esseri pacifici e collaborativi, a meno che non abbiano ricevuto insegnamenti distorti dai genitori. Sono stata una medica. Ho osservato l'infanzia muoversi a suo agio nello sperimentare l'apprendimento, l'ho vista imparare da sola a leggere e a scrivere, unendo istinto e ragionamento. E cosa significa ciò se non ricordare, risvegliare le memorie sopite nel siero acquoso delle nostre cellule, che sono archivi della storia umana? Voi tutte sapete che noi siamo quasi completamente composte d'acqua e che l'acqua possiede una memoria. Dimostrai che bastava lasciare l'infanzia tranquilla e libera di ricordare e apprendere in un luogo sicuro. Cominciai con la prole delle classi povere di Roma. Le fornii un luogo dove apprendere giocando. Insegnai solo le più elementari norme igieniche e garantii un buon pasto finché ebbi chi finanziava il mio progetto. Ma il mio successo attirò l'attenzione della dittatura patriarcale, la quale non poteva tollerare che nella mia scuola i maschietti aiutassero a sparecchiare la tavola. Cercarono di portarmi dalla loro parte e di farmi diventare una testimonial della loro propaganda, prima blandendomi e poi minacciandomi. E quando mi negai, mi chiusero la scuola e dovetti rifugiarmi in Olanda, dove ho potuto operare per lunghi anni e dove ancora oggi ha sede la mia organizzazione. L'Italia, povera matria, è sempre riuscita a far fuggire le menti migliori, togliendole il lustro di geni e innovatrici che nei secoli ha prodotto in abbondanza. La tua Mary Poppins, sorella Pamela, non tratta l'infanzia come umanità inferiore, la responsabilizza, le mostra come essere autonoma e l'aiuta a tirar fuori il suo potere interiore. Ha la mia approvazione come educatrice. E poi si chiama come me. Maria tacque con l'evidente intenzione di non dire altro e di restituire la parola a Pamela. Si voltò e cercò un posto nel cerchio dove sedere accanto alle beghine, mentre Pamela le soffiava un leggero bacio sulla punta delle dita. Fu la cara Mary Shepherd, un'altra Mary, riprese Pamela, a dare le giuste fattezze alla mia bambinaia magica ispirata alla terrificante zia. Quanto ridevamo, Mary Shepherd ed io, la sera, mentre sorseggiando del Madera accoccolate davanti al camino, io le raccontavo di quella zia permalosa, coriacea, alta e stretta come un fagiolino secco, ma dotata di intuizione, di lungimiranza e grande senso della giustizia, e mentre raccontavo, tornando con la memoria alla mia infanzia australiana. Chissà quante volte lo hai fatto anche tu, sorella Catherine, nello scrivere le storie di Keziah. Lei catturava velocemente le immagini, intingendo il sottile pennino nella fuliggine del caminetto, contratti aggraziati e scuri sui ruvidi foglietti bianchi che portava sempre con sé. E da quei movimenti di disegno rapidi e disinvolti emergeva la mia Poppins con una nitidezza che nemmeno io possedevo nelle mie immagini mentali. Vedendo i suoi disegni dare corpo e volto alla Poppins, riuscivo a caratterizzarla meglio anche io. Disney mi corteggiò per 20 anni, pur di avere i diritti sulla Poppins, e mi fece apparentemente incredibili concessioni sulle royalties e sul benestare finale alla sceneggiatura che tassativamente avevo preteso di avere per contratto. In realtà, tali concessioni furono disattese, visto che nel film fu inserito ugualmente tutto ciò che io non avevo approvato. Nonostante gli avessi ceduto i diritti, io mi opposi fino all'ultimo e tentai perfino di bloccarne l'uscita nelle sale, perché non avevo affatto dato il mio benestare né alla sceneggiatura né tantomeno alle canzoncine che mai e poi mai la mia Poppins avrebbe cantato. Non fui invitata alla prima. Dovetti imbucarmi per assistere alla radicale distorsione che il film aveva inflitto alla mia bambinaia magica. Allora compresi che avevano voluto banalizzare la mia Poppins e il suo messaggio esoterico, rendendolo innocuo per le giovani menti non ancora formate. In ogni capitolo degli 8 romanzi, la mia Mary Poppins conduce Jane e Michael Banks e successivamente anche i gemelli neonati a scoprire una diversa sfaccettatura di una realtà che nel mondo moderno verrebbe definita quantica. Viaggiano in cielo, in fondo al mare, nel centro della terra e volano. E al ritorno, da brava guardiana della soglia, Mary nega tutto, evitando di rispondere alle incalzanti domande di Michael, ma lasciando ogni volta degli indizi che rivelano non essere stato per nulla un sogno. Ciò che avveniva era reale, ma in un'altra dimensione. La conoscenza dei mondi paralleli fa parte da sempre di ogni cammino spirituale. Fuori dalla frequenza duale che vibra nella lotta, nel conflitto e nella competizione, Mary Poppins mostra a Jane e Michael il passaggio per entrare nell'unità, dove non essendovi più conflitto esiste solo felicità. Sorella Devana, tu avesti una chiara visione di come attraverso le fiabe l'infanzia venga addestrata al conflitto e alla lotta. Specialmente alle bambine viene insegnato il conflitto a causa della presenza in ogni fiaba di personaggi femminili che vogliono fare del male alla protagonista. Matrigne, sorellastre, streghe cattive che seminano nelle piccole ascoltatrici la sfiducia verso le altre donne. Avesti la mia stessa intuizione, poiché il mio portale verso la frequenza dell'unità conduce proprio a uno spazio-tempo parallelo nel quale tutti i personaggi delle fiabe, tradizionalmente nemici, diventano amici. Capuccetto Rosso con il lupo, Jack l'ammazzagiganti con il gigante, il leone con l'unicorno, Riccioli d'oro con i 3 orsi e tanti altri. Nelle mie frequentazioni esoteriche mi fu svelato che quella porta, questo luogo parallelo, si può raggiungere nel tempo compreso tra il primo e l'ultimo rintocco della mezzanotte di Capodanno. Nei 10 rintocchi intermedi esiste uno spazio che io battezzai lo scoppio. Quello è il portale per l'unità, lo scoppio, da cui si entra nel grande giardino dove tutti i nemici giurati si riconciliano e danzano insieme. La mia penna volava da sola nel fissare sulla carta ciò che sentivo nel cuore e che improvvisamente si svelava alla mia comprensione proprio durante un capodanno, mentre allontanandomi dalla festa mi concentrai nell'ascolto delle campane. Nello scoppio scriveva la mia penna, tutto Tutte le cose sono come fossero una sola, gli eterni nemici si abbracciano e baciano. Il lupo e l'agnello stanno coricati insieme, la colomba e il serpente dividono lo stesso nido, le stelle si chinano a toccare la terra, la notte e il giorno si incontrano e così pure i due poli. L'est si china verso l'ovest e così il cerchio è completo. Questo è il momento e il luogo, l'unico momento e l'unico luogo dove ogni mortale vive felice. Come sempre, al mattino Mary Poppins nega tutto perché la dualità va preservata per coloro che non sono pronti a vedere, ma ogni volta lascia oggetti fuori posto, come indizi a segnalare che non si era trattato di una fantasia. Mary Poppins è colei che preserva la dualità durante il giorno e che la infrange durante la notte, come Penelope. Si muove tra i mondi e alla fine di ogni romanzo sparisce. Se ne va, chissà dove. Forse nello stesso mondo parallelo dove vanno i nuclei degli atomi, quando, come sostengono i fisici quantistici, spariscono dai microscopi? È da lì che anche noi antenate entriamo e usciamo dal mondo. Non siamo mai scomparse. Ci siamo solo trasferite in una dimensione parallela, la stessa dove va la mia Poppins alla fine di ogni romanzo. A 97 anni lasciai il corpo con la consapevolezza che pur avendo fatto del mio meglio, come tutte, il sistema patriarcale era troppo radicato e potente anche solo per essere scalfito. Il tempo non era ancora venuto e io me ne andai in pace lasciando il mio contributo alle generazioni future. Me ne andai dall'altra porta, quella spalancata sul nulla che Jane e Michael vedevano riflessa nella finestra della loro cameretta col buio. Come la mia Poppins, ristetti un attimo col piede sulla soglia, poi aprii l'ombrello e rimasi appesa nella notte. La porta dell'ovest per me era sempre spalancata. Pamela non volle rinunciare neanche un attimo della sua affascinante esibizione teatrale. Sollevandosi sulle mezze punte, piroettò su un piede e mimò un'uscita a passo di danza, muovendo come ali le esili braccia su cui sventolavano le maniche del caftano. Ah, che leggerezza, che miele per l'anima il suo racconto! Ci stava dicendo che il tempo sarebbe venuto e che forse era già lì con noi ad ascoltare le nostre storie. Il sole si era notevolmente abbassato e tutte ci stringevamo nei mantelli perché l'aria del deserto cominciava a rinfrescare. Gertrude buttò qualche legnetto secco e poi un ciocco sulle braci ancora vive, cosicché in poco tempo il fuoco riprese vigore. Pensavamo che anche per questa volta il nostro incontro in cerchio fosse terminato, poiché tutte avevamo parlato, ma nessuna di noi aveva cuore di alzarsi e salutare. Il desiderio di prolungare il magico cerchio, o forse l'istinto, ci faceva rimanere ancora sedute in silenzio, in ascolto. Fu in quel momento che vedemmo approssimarsi contro il sole arrossato basso all'orizzonte due figure ieratiche avvolte in meravigliosi kimono che scintillavano come fiamme. Le due donne entrarono nel cerchio a piccoli passi e fecero un grazioso inchino a mani giunte, si avvicinarono al brico del caffè, lo annusarono e arricciarono i perfetti nasini dalla pelle diafana. Forse desideravano del tè. Alzarono i veli e vedemmo lineamenti orientali meravigliosamente disegnati. E mentre Gertrude rovistava cercando del tè verde per le sorelle ultime arrivate, loro si presentarono. «Noi portiamo la voce del Giappone, dove vive la dea Amaterasu. Abbiamo viaggiato a lungo, venerabili sorelle, e vi chiediamo di perdonare il nostro ritardo. Io sono Murasaki Shikibu», disse educatamente una delle due, «e la mia compagna è Katsushika Oei, la figlia di Okusai. Noi portiamo l'antica voce degli Yomon, di cui prima ha parlato la sorella Millicent, le statuette della dea che le nostre antenate chiamavano Dogu. Siano con noi in questo cerchio a testimoniare l'antichità, la circolarità e l'universalità del culto della grande madre. Intanto, mentre la sottile donna drappeggiata nel suo elegante kimono violetto parlava, Gertrude aveva trovato delle foglie di tè che si affrettò a gettare nell'acqua del bricco rimasto in calda sulle braci. Così, dopo qualche momento in cui noi restammo in silenzio, completamente rapite dai riflessi del sole calante che sfavillava sulla seta delle loro vesti, le due donne ebbero la loro bevanda e si ristorarono prima di offrirci il loro racconto.